Sempre Radio Popolare, questo è Rimandati a settembre che sta per iniziare. Chiacchiere di scienza, di scienziati e non solo. Certamente, in studio Roberto Caselli, Paolo Magliocco e il nostro ospite di questa sera che è Marco Ferraguti. Ciao Marco, ben arrivato. Ciao, grazie. Allora, di che cosa si occupa Marco Ferraguti? È un evoluzionista, giusto? Biologo evoluzionista. Sì. È stato lui ad avere la prima cattedra in Italia di biologia, di evoluzione biologica. Si dice così? Sì, così. Evoluzione biologica. È così. Quando? Oh. Non mi ricordo. 1985, me l'hai detto tu. Sì, ma non è una data un po' così. Quindi 30 anni fa, 30 anni fa la prima cattedra di evoluzione biologica. Sì. Che cosa si insegna quando si insegna evoluzione biologica? Urca. Ecco una domanda complessa. Allora, l'evoluzione sostanzialmente sono due cose diverse. Da un lato la storia della vita sulla Terra e dall'altra le teorie che l'uomo ha formulato per spiegare gli eventi della storia della vita sulla Terra. È un po', se volete, la stessa differenza che c'è fra la storia e la storiografia. Ed è sempre molto, molto importante, secondo me, tenere in mente questa duplice natura dello studio dell'evoluzione. Perché fra la ricostruzione della storia della vita sulla Terra, intesa nel senso di cronologia, e i meccanismi che spiegano la storia, c'è una bella differenza. La differenza di fondo più importante è che mentre la cronologia è controvertibile, nel senso che se io ipoteticamente, come ha detto qualcuno di molto più bravo di me, trovassi, che ne so io, un fossile di mammifero nell'era precambriana, dovrei ripensare alla ricostruzione della storia della vita sulla Terra e lì va bene. Invece, per usare un termine un po' pomposo, no? La falsificazione di un meccanismo è tutto un altro paio di maniche. Cioè, se io dico la nascita degli ordini diversi di mammiferi è dovuta alla frammentazione della Pangea, faccio un'affermazione pesante che non è falsificabile nel senso strettamente popperiano del termine, cioè io non posso rifare la Pangea, rimetterci i mammiferi primitivi, poi frazionarle. Ecco, questo crea un problema non da poco. Eh sì, qui entriamo subito coi piedi nel piatto su uno dei temi, no? Ecco, crea un problema non da poco, perché quando un tale ti dice questo evento del passato molto probabilmente è stato dovuto a questo, e un altro dice questo evento del passato probabilmente è stato dovuto a quest'altro, a quel punto lì tu li devi mettere uno contro l'altro e ragionare e costruire una spiegazione ragionevole. Quanto conta la filosofia in questo caso? E dunque, da un certo punto di vista moltissimo, da un altro punto di vista niente. Ti spiego. Se io avessi una bacchetta magica, vorrei sempre di fianco a uno che si occupa di biologia evoluzionistica un filosofo. Il problema è che i filosofi, almeno da noi, hanno, sto parlando così a spanne, no? Un disprezzo a volte anche molto palese per la scienza, che probabilmente ha le radici in Benedetto Croce. E quei filosofi che si occupano di scienza, torno a dire, in Italia, prevalentemente si occupano di fisica, di chimica, di scienze hard, cosiddette. E di solito quando parlano di biologia dicono stupidaggini. Questo è. Però la filosofia della scienza anche in Italia ha conosciuto riscossa notevole. Assolutamente. Ultimamente tu hai lavorato tanto anche con Pievani. Sì, certo. Però la filosofia della biologia è poco praticata. È poco praticata. Ecco, mettiamola così. Gli studenti che mi passano per le mani, bravi, che vogliono fare la filosofia della biologia, se ne vanno a Bristol piuttosto che a Auckland, eccetera. Senti, raccontaci un po', come sei arrivato a occuparti di evoluzione? Tu nasci come biologo e a un certo punto però prendi una sorta di specializzazione. Allora, cerco di farla breve. Io mi sono laureato in biologia nel 1971. Qui a Milano? qui a Milano e mi sono laureato con quello che io ho sempre considerato un maestro, che si chiamava Giulio Lanzavecchia. Ah, che è stato anche il mio professore di istologia. E certo. E il quale è stato una delle prime persone, si può dire il primo, insomma, una delle prime persone in Italia che ha imparato a usare il microscopio elettronico. E sicuramente quello che l'ha imparato meglio. Quando io dico usare bene il microscopio elettronico, intendo dire che tu non solo sai che viti bisogna girare, ma sai anche che cosa succede quando giri una vita. E quindi allora era la grande novità, cioè guardare le cellule al microscopio elettronico era di per sé una cosa interessante. Poi nel corso del tempo il microscopio elettronico è diventato uno strumento come un altro, che tu adoperi e belle fatto, però per risolvere dei problemi, cioè non è più la microscopia elettronica l'interesse, ma il problema che sta dietro e che tu cerchi di risolvere usando il microscopio elettronico. Allora, la mia tesi allora era una tesi di biologia della cellula, e però le cellule che studiavamo noi erano delle cellule di anellidi, quelli che la gente comunemente chiama vermi, tipo lombrichi e parecchi. Certo. Okay. Ed erano, per l'esattezza, gli spermatozoi durante la loro formazione. E quindi sono cascato su quello che è stato poi il soggetto di lavoro del resto della mia vita scientifica. E io ho lavorato sugli spermatozoi per tutta la mia, diciamo, vita produttiva di ricerca. Sugli spermatozoi degli animali invertebrati, insisto, cioè... ecco. E poi a un certo punto che cosa è successo? Che io ero precario. Adesso si usa dire che ci sono i precari, ma i precari c'erano anche allora. E Lanzavecchia, che è un uomo molto generoso, aveva la sua cattedra e poi aveva anche un corso da incarico, che gli veniva attribuito come incarico, che gli fruttava dei soldi. E lui ha passato questo corso a me. E il corso si chiamava Biologia Generale. Ora, quando io ho avuto questa cosa, prima di tutto mi sono molto spaventato perché ero relativamente giovane. Metti che avessi 26 anni, una roba così. E poi perché avevo intuito fin da subito che è un titolo che non ha senso. Cioè, se tu sei a un corso di laurea in biologia, cosa vuol dire un corso di biologia generale? Cioè, lo farai, non so, agraria, medicina, ma la biologia è tutta biologia, quindi la biologia generale che senso ha? Allora mi sono domandato, ma qual è la vera biologia generale? E la risposta è stata la biologia dell'evoluzione. E lì è cominciata tutta la storia. Oh, l'evoluzione quindi come culla in cui sta tutta la biologia. Esatto, o la chiave interpretativa di tutta la biologia, o una delle chiavi più forti di tutta la biologia. Cioè, senti, anche nello studio degli spermatozoi tu hai trovato in realtà tanto che avesse a che fare con l'evoluzione. Sì, ecco, diciamo che da un certo punto di vista, ecco, anche questo è bello dell'evoluzione, cioè, per tornare a quello che avevo detto all'inizio, in realtà lo studio dell'evoluzione è fatto da una miriade di persone che quotidianamente guardano molecole, comportamenti, strutture, DNA, eccetera, eccetera. E da poche persone che ogni tanto tirano le fila di tutto questo lavoro e cercano di produrre delle, diciamo così, generalizzazioni o delle teorie abbastanza generali. Ecco. E quindi io nel mio, diciamo, lavoro quotidiano, quando lavoravo, producevo dati che era lo studio degli spermatozoi e lo studio degli spermatozoi usati come un criterio per indagare i rapporti filogenetici fra gli esseri viventi, cioè come se fossero un carattere come un altro. E, cioè le parentele tra specie viventi attraverso gli spermatozoi, come sono fatti. E niente, e poi dopo, quando invece insegnavo, avevo un po' questi due pedali, no? Alla mattina guardavo al microscopio gli spermatozoi e al pomeriggio, vabbè, leggevo lavori, cercavo di ricavarne un succo e raccontavo agli studenti fondamentalmente le teorie dell'evoluzione. Allora, rispetto al neodarwinismo classico, negli anni che cosa si è evoluto, cosa si è scoperto di nuovo? Allora, io se avessi una bacchetta magica, fra le mille cose che vorrei fare è abolire la parola stessa darwinismo, perché la parola darwinismo è una parola estremamente ambigua, nel senso che se tu la vuoi applicare alle idee sull'evoluzione di Darwin, come per esempio io farei a logica, no? Allora Darwin ha detto un sacco di cose sul cambiamento degli esseri viventi, in mezzo alle quali anche alcune stupidaggini, cioè cose che oggi non sono assolutamente più valide. Ma per esempio Darwin, come ormai penso tutti sappiano, era lamarckiano, contrariamente a quello che sta scritto su tutti i libri di testo. Cioè, adesso è un po' una battuta, però ecco, Darwin attribuiva molta importanza all'ereditarietà dei caratteri acquisiti, ma non perché lui fosse particolarmente lamarckiano, ma perché lo erano tutti. Tutti credevano nell'ereditarietà dei caratteri acquisiti fino a quando... Beh, però lui è stato il momento evolutivo, insomma, voglio dire, è stato il primo a dire che non è una questione di acquisizione dei caratteri, ma di genetica in realtà. Allora, nel senso che Darwin credeva in tutte e due le cose, insomma, cioè lui accettava, come tutti, torno a dire, l'ereditarietà dei caratteri acquisiti, ma nello stesso tempo, naturalmente, come tutti sanno, ha proposto la selezione naturale, che è stata la sua grande trovata, la grande idea. Però, ecco, quello che voglio dire è che le due cose nella sua mente non erano in contrasto, fino a quando poi non è arrivato August Weismann con la sua teoria della separazione della linea somatica e della linea germinale, e che adesso non è il caso di approfondire, sarebbe un discorso un po' più lungo, e questa cosa qua ha fatto sì che mancassero i fondamenti dell'idea dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti. Weismann chiama il suo movimento, la sua idea dell'evoluzione, neo-darwinismo, e cioè il darwinismo privato della componente. Riveduto è corretto, della componente, possiamo dire così. Beh, c'è, ecco, però, c'è anche l'idea della mutazione dentro, però. No, la mutazione viene dopo. Ah. La mutazione viene scoperta, scoperta e battezzata da Hugo de Vries alla svolta del secolo, nei primissimi anni del Novecento. Anche perché Darwin di genetica non sapeva una cippa. Infatti, però, come neo-darwinismo, almeno io sapevo che si intendeva appunto l'evoluzione darwiniana più il concetto di mutazione. Esatto, ma non è così in realtà. Cioè, il neodarwinismo a stretto rigor di termini è quello di August Weismann. Okay. E poi, vabbè, si usa chiamare neodarwinismo, diciamo così, l'evoluzione che si insegna a scuola, cioè le mutazioni a selezione naturale. Però è un uso scorretto, non so se mi spiego, dal punto di vista terminologico è veramente scorretto. Quindi siamo tutti figli forse di Darwin, ne sono successe di cose da Darwin. Sarebbe forse più corretto fare richiamo alla sintesi moderna o alla teoria sintetica dell'evoluzione, che è quella che è accaduta negli anni 40-50 del Novecento, che ha stabilito il paradigma del darwinismo che si usa. Qual è il paradigma del darwinismo che si insegna appunto, oggi a scuola? Questa cosa qua, che ci sono le mutazioni, c'è la selezione naturale, che le mutazioni sono tendenzialmente delle piccole variazioni, che quindi il cambiamento è un fenomeno graduale e non un fenomeno improvviso, e soprattutto che le grandi differenze fra gli esseri viventi, quelle che si usa chiamare in gergo l'evoluzione transpecifica, cioè l'origine delle specie diverse. Delle grandi delle grandi categorie sistematiche, per dire l'origine dei vertebrati, l'origine dei molluschi, eccetera, eccetera, possono essere spiegate attraverso l'accumulo infinito e lentissimo di piccole variazioni. Questo, detto in soldoni, era la teoria sintetica dell'evoluzione. Va bene, senti, allora, è impegnativo, per cui mettiamo un po' di musica giusto per stemperare. Cosa hai scelto, Marco? Allora, la prima musica che ho scelto, allora, prima di tutto devo fare una dichiarazione d'amore non richiesta. Bach è la musica della mia vita. Io ascolto soprattutto Bach. Per molti anni ho ascoltato giorno e notte la musica per clavicembalo di Bach. La composizione più importante, o dal mio punto di vista più interessante, è il Concerto Italiano. Una musica estremamente complessa, nella quale Darwin, con uno, Che buffo. Bellissimo lapsus. A volte succede. Bach, con un unico strumento, che ai suoi tempi era il clavicembalo, simula un'intera orchestra e compone in stile italiano. La musica di Bach è talmente enorme e talmente eterna che si può suonare anche in forma di jazz. Quindi ho scelto Jacques Lussier nel suo famosissimo disco Play Bach. Va bene. Oh Paolo, non incontriamo uno scienziato che ami le Zeppelin? Come no, questa veramente. Guarda, ne conosco uno, vi do il nome. Lo invitiamo subito. Sì, sì. Intanto sentiamoci Bach. E questa era la trasposizione bacchiana, diciamo così, di Jacques Lussier col suo trio. Complesso, complesso come un meccanismo evolutivo questo pezzo. Sì, infatti. Beh, intanto ricordiamo che c'è Marco Ferraguti, biologo evoluzionista, come nostro ospite, e a proposito di trasposizioni possiamo dire che dopo Darwin ne sono arrivate così a decine di altre teorie che integrassero, che dessero più significato forse al concetto di evoluzione. Non so, a me viene in mente Eldridge Gould, per esempio, con gli equilibri puntuati. Cosa vale ancora questa cosa? Allora, sì, il problema è molto complicato. Negli ultimi anni c'è un movimento in corso che è stato iniziato da un grande filosofo della scienza italiano, Massimo Pigliucci, che vive negli Stati Uniti da molti anni, che spinge verso una riformulazione della nuova sintesi, che si chiama la sintesi estesa. Perché lui ha pensato che fosse il caso di proporre la sintesi estesa? E non l'ha solo proposta, ha anche combinato un meeting storico a Altenberg, alla periferia di Vienna, dove 18 persone si sono a porte chiuse, messe dentro in una stanza, a raccontarsi la loro nuova visione dell'evoluzione. E perché lui riteneva che fosse importante? Perché, diciamo, come dicevo, il mio amico Mario Di Gregorio è un grande studioso di Darwin che insegna all'Aquila. Tutto ciò che è successo dopo Darwin è stata una discussione intorno al valore della selezione naturale. E queste idee o teorie che sono nate negli anni recenti possono essere viste come dei limiti alla selezione naturale, per cui la nostra visione della selezione naturale da meccanismo ingenuamente onnipotente che può spiegare qualsiasi cosa, pian piano viene limitata, no? Taglia via un pezzetto di qui, un pezzetto di là. Faccio un esempio, giusto per capirci. Per esempio, negli ultimi anni si è capito che il meccanismo della simbiosi, cioè della vita comune di due esseri viventi, è un meccanismo molto importante della storia della vita sulla Terra. Questo è dovuto soprattutto al lavoro della grandissima Lynn Margulis, una biologa americana, un personaggio veramente splendido, la quale ha resuscitato una teoria di un oscuro scienziato russo degli anni 20 del Novecento che sosteneva che le cellule, così come le conosciamo noi, erano frutto di un fenomeno di simbiosi, cioè che molti degli organelli cellulari in realtà erano dei microorganismi che sono andati a vivere stabilmente dentro le cellule di altri organismi. Un po' come i mitocondri, insomma. I mitocondri, per esempio, sono uno, gli altri sono i cloroplasti e esatto. Così via. E, allora, questa cosa qui all'inizio è sembrata una bestemmia. La povera Lynn Margulis ha scritto nella Terza Cultura di John Brockman, dice: all'inizio il mio articolo è stato respinto da 16 fra i maggiori giornali scientifici del mondo. Ma oggi tu apri un libro delle medie e il libro delle medie ti dice che i mitocondri sono nati attraverso un processo di simbiosi. Ora, uno potrebbe anche sostenere che sì, c'entra la selezione naturale, perché certo, se quel microorganismo che è andato a vivere dentro nella cellula non funzionava, sarebbe stato un vicolo cieco, diciamo. Però è veramente un po' tirata per i capelli. Cioè, è evidente che un cambiamento del genere, cioè andare di punto in bianco a vivere all'interno di un altro organismo, è ben più che la famosa mutazione puntiforme prevista. Vale anche per i batteri, per esempio, i microorganismi che popolano il nostro corpo, certamente nostro il famoso microbioma, no? Microbioma, no? Ecco, che oggi, è molto più numeroso del nostro. Oggi è uno degli argomenti di punta della ricerca biologica. Ospitiamo 1,5 chili di batteri stabilmente nel nostro corpo. Che nel tempo si sono accasati, non solo nell'intestino, sono accasati a un punto tale che non possono essere coltivati, e questo è un grosso limite alla ricerca, non possono essere coltivati fuori dal corpo. Nostro organismo. E quindi spesso si fanno esperimenti in forma indiretta, cioè per esempio tu somministri degli antibiotici e vedi le conseguenze. È quello per cui prendiamo i fermenti lattici, insomma, che ci fanno tanto bene. Ma questo è comunque un meccanismo basato sull'evoluzione, cioè un meccanismo evolutivo, rispecchia i paradigmi. È un meccanismo evolutivo clamoroso, cioè, per dire, vi faccio un esempio banale, esistono delle vespe appartenenti al genere Nasonia, che ospitano microorganismi, come tutti gli esseri viventi, no? Anche loro hanno i loro microorganismi, che sono diversi. Quando vespe di due specie diverse si incrociano, l'ibrido è sterile. L'ibrido non vive, insomma, non è vitale. Mm-hmm. L'ibrido questo è sempre sterile in realtà, no? No, non è sempre sterile. No. E in questo caso non è vitale. Non è vitale. E allora cosa hanno fatto questi diavoli di ricercatori? Hanno somministrato antibiotici sia alla specie paterna che alla specie materna per uccidere. Li hanno incrociati e a quel punto là l'ibrido è vitale. Quindi erano i batteri ospitati da ciascuna delle due specie. Quindi i batteri hanno fortemente a che fare, i batteri, simbionti, hanno fortemente a che fare con l'evoluzione. Non siamo soli, insomma, in ciascuno di noi non ecco, è infatti, poi così solo. Da un punto di vista, se volete, più filosofico, non siamo mai soli. Ciò che va in crisi è il concetto stesso di individuo. Sì, certo. L'individuo ha un senso su un piano del tutto teorico, ma su un piano pratico non esiste l'individuo. Certo che l'evoluzione di cosa ne dice? Ce ne combina. Senti, ma io, voglio dire, uno che studia queste cose in modo approfondito fa di questo lavoro la sua vita. Immagino che abbia anche, come dire, una forte esistenzialità, no? Perché uno si chiede a maggior ragione come mai, per esempio, voglio dire, se noi prepariamo un DNA in vitro poi non lo riusciamo a rendere attivo, e invece all'interno dell'organismo è quel soffio vitale famoso di cui, insomma, tu come ti spieghi queste cose? Ammesso che sia possibile spiegarsene, insomma. Io al momento sono molto, com'è che si può dire, umile, se così si può dire. Cioè, non so se avete visto, anzi lui l'ha visto l'altro giorno, ho curato un libro di testo sull'evoluzione negli ultimi anni e ho messo sulla copertina una fotografia di un essere veramente inspiegabile. Penso che nessuno abbia un'idea seria di perché quell'essere sia fatto così, e ce l'ho messo esattamente per questa ragione, perché secondo me il bello dello studio dell'evoluzione, che però è un po' anche il bello di tutta la biologia, è che noi stiamo scalfendo la superficie di una roba immensa che sta sotto, che non sappiamo dove ci porta. Ecco. Adesso io non so se l'esempio che hai fatto tu sia calzante, perché alla fine Craig Venter esattamente quello che fa è di sfilare il DNA da un batterio, modificarlo e poi rimettercelo dentro. Sì, no, quindi. Ma io intendevo a partire proprio dalla chimica, no? E costruire il DNA ex novo, insomma. No? Cioè ormai potremmo farlo, però sì, se c'hai la sequenza sicuramente sì. Ma non riusciamo a renderlo funzionale. Come no? E basta che tu prendi quello del batterio e lo rifai in vitro, sai che quella roba lì funziona e poi gliela ricacci dentro. Ha bisogno comunque dell'ambiente. Sì, però hai bisogno di una cellula, voglio dire. Ah beh, certo, sì. No. Ah, il DNA da solo non... Vabbè, il DNA da solo fa la sintesi proteica. La sintesi proteica in vitro è una roba molto banale. Comunque niente come l'evoluzione ovviamente ha a che fare con quello che noi pensiamo della vita in senso generale, no? Del perché esiste la vita e del come si sviluppa. E non per niente la teoria dell'evoluzione è quella che più è soggetta anche ad attacchi, a polemiche, a rivisitazioni che hanno molto a che fare con l'idea dell'esistenza di Dio, con la concezione religiosa delle persone. Questo secondo te, innanzitutto, è corretto oppure è una deformazione? Di nuovo anche qui la risposta è complicata. Tra gli evoluzionisti, io conosco degli evoluzionisti che sono dei credenti di varie discipline, non so, islamici non lo so, ecco. Però credenti di varie confessioni cristiane, per dire Dobzhansky, uno dei più grandi evoluzionisti del Novecento, era un militante della Chiesa ortodossa. Francisco Ayala, che è un grandissimo evoluzionista contemporaneo, ancora vivo, eccetera, è talmente credente che era un frate domenicano, che poi a un certo punto... A me piacciono molto i pettegolezzi. E però chi crede fa più fatica ad accettare la teoria dell'evoluzione, o no? Ti dico, in Vaticano nel 2009 c'è stato un grande convegno sull'evoluzione, presieduto da Francisco Ayala, giusto appunto, che pur essendo un ex domenicano gode di molta stima in Vaticano, e nessuno era particolarmente scandalizzato là dentro. Ci sono stato anch'io, era il Pontificio Ateneo Gregoriano e sono usciti gli atti alti così. Naturalmente, come sempre un po' succede, bisogna distinguere fra il parroco di campagna e il pensiero della Chiesa, insomma. Adesso io non voglio approfondire. Senti. Creazionismo, intelligent design, così chiudiamo poi questa parentesi. Non sono la stessa cosa, sono teorie significativamente diverse e tutte e due hanno un grande appeal, soprattutto in un certo mondo, forse più che in Italia, negli Stati Uniti. Diciamo che l'intelligent design è una forma di creazionismo, cioè l'idea di fondo dell'intelligent design è la irriducibilità di certe strutture biologiche. Cosa significa irriducibilità? Significa tu hai delle strutture, uno dei loro pezzi di battaglia più importanti è il flagello dei batteri. Il flagello dei batteri è costituito da un certo numero di proteine e dice quel flagello lì funziona soltanto se ci sono tutte le proteine. Basta che tu ne levi anche una, il flagello non funziona più. Quindi deve essere stato progettato. Allora la gente gli risponde, e quindi l'ha progettato Dio. E loro dicono, io questo non l'ho detto. Certo. Ma è vero che è necessario che sia stato progettato? Ma no. In realtà... La selezione potrebbe rispondere, se non naturale, da questo punto di vista, no? Sì, più che altro quello che mi pare i ricercatori sono stati in grado di fare è identificare dei precursori di tutte le proteine che costituiscono quel flagello, che magari in altre forme batteriche svolgono un'altra funzione e hanno modificato la loro funzione per andare a funzionare lì. Questo qui è un concetto molto generalizzato dell'evoluzionismo, il cambiamento di funzione, quello che tecnicamente si chiama il cambiamento di funzione. E però c'è questo problema, no? Che alla fine quello a cui non si rassegnano è la casualità di quello che è il meccanismo evolutivo, per cui a un certo punto ti tieni le tue convinzioni religiose da una parte, ma lo sviluppo della vita... Nego che il meccanismo evolutivo sia casuale. Okay. Le mutazioni, i cambiamenti genetici sono casuali, la selezione naturale è la cosa meno casuale di questo mondo. Okay. E quindi non è affatto vero che l'evoluzione sia guidata dal caso. Molto bene, dopo questa come dire, definizione assolutamente precisa, andiamo a sentire un secondo pezzo. Ostravaganza, cos'è questa Ostravaganza? Allora, Ostravaganza è un gruppo irlandese di musica popolare irlandese che suona musica classica, in questo caso un concerto di Vivaldi. E la cosa divertente, appunto, forse vi sarete accorti che mi piacciono le contaminazioni musicali. Sì. Allora, in questo caso, appunto, così qui, con strumenti e mentalità da musica popolare irlandese, suonano un concerto per violino di Vivaldi. Eccolo qua. Senti che spettacolo. Thank you. Bene, bene, bene. Allora, ci siamo sentiti anche un po' di musica irlandese, come dire, un po' rivisitata anche in questo caso. Perché la contaminazione? Ah, non lo so. L'origine di tutto è che a me piacciono le musiche che si fischiettano e non mi piacciono le musiche che non si fischiettano. E allora, se uno riesce a rendere... Contaminazione è anche un po' simbiosi, sì, sì. In fondo, certo, no? Per riprendere, certo, il discorso di prima. Si fischiettano magari quando vai in montagna, perché un'altra cosa di Marco Ferraguti è che è un grande, grande appassionato di montagna. Sì, sì. Sei un camminatore. Sì, ho appena fatto il giro del Monviso in 3 giorni, nell'ultimo weekend. Il prossimo? Il prossimo sarà una gita in Georgia, nel Caucaso, di una decina di giorni. Insomma, non è male, devo dire, come scelta anche geografica. Musica, montagna, quali sono le altre passioni? Qualunque cosa, la bicicletta, che uso come praticamente unico mezzo di trasporto. E poi sono un lettore disordinato e onnivoro, salvo che dei libri che mi annoiano. Ecco, io ho un po'... Tu smetti a metà un libro? Assolutamente, sì, sì. Anzi, anche prima di metà. No, adesso non voglio fare degli esempi perché non sta bene, non sta bene. L'ho fatto. Vivi di passioni, insomma. Sì, assolutamente. D'altra parte, la mia idea è che quando uno fa un lavoro di tipo scientifico ha bisogno delle valvole di sfogo. Allora, le mie valvole di sfogo sono appunto la montagna, la musica e la lettura. E le valvole di sfogo, se non sono irrazionali, che valvole di sfogo sono? Senti, una vita, adesso ti faccio una domanda provocatrice, una vita passata a studiare gli spermatozoi, quanto influisce sul sesso? Questo non lo so, però... Che noia, certo, dice, che, alla fine? No, certo, vale. Che attaccati agli spermatozoi ci stanno tante storie divertenti. Per esempio, il prossimo seminario che farò a Modena il giorno 22 settembre si intitola... Tradimento, 2: storia naturale dell'infedeltà. E spiegherò questo partendo da... Adesso ce ne dai però sì, un'anticipazione, assolutamente. No, vabbè, semplicemente si tratta di spiegare alla gente che la monogamia in natura non esiste. E questa è stata una cosa che è uscita con molta forza negli ultimi, diciamo, 20 anni, da quando ci sono le tecniche di identificazione della paternità. E questo crea un problema, perché... mentre il tradimento negli esseri umani è facilmente giustificabile su basi, che ne so io, psicologiche o sociologiche, o semplicemente per piacere, ecco, è difficile immaginarsi che una gallina faccia ciò stessi, non pensandoci, lo so. Non lo so, ecco, quindi bisogna spiegarla sta cosa. E quindi c'è un torrente di letteratura su questo argomento. Ma una spiegazione ancora non c'è. Sono molte spiegazioni. La tua? No, dico, ci sono molte spiegazioni, perché ecco, il bello dell'evoluzione è questa qua, che l'evoluzione, come la storia, no? Torno all'inizio, è un rivolo, è un'infinita quantità di rivoli che vanno in direzioni diverse. Delta. E ogni vicenda ha la sua storia. E il problema grosso è mettere insieme tutte queste storie e formulare una teoria generale. Quindi io ti posso rispondere dicendo che ci sono, per esempio, dei modelli di uccelli che sono stati studiati particolarmente, in cui il tradimento o l'alterazione della monogamia, che in questo caso si chiama monogamia sociale, cioè la femmina quando vede che il maschio è disattento va a scodinzolare davanti a un altro maschio, perché va a cercare quelli di qualità genetica migliore. Per esempio, questa potrebbe essere una spiegazione, ma vale in quel caso lì, in altri chi lo sa. Questo vale soprattutto dove c'è un leader nel gruppo, no? Cioè quando il leader viene sostituito, mi sembra che ci siano stati anche nei cavalli, credo, dei casi di aborti spontanei da parte delle femmine. Sì, questo è un procedimento che viene messo in opera molto spesso. Bene, come senti, tutti quelli che si occupano di evoluzione, tu sei anche un grande, come tutti, non lo so, però insomma, la sensazione è questa, è un grande collezionista. Ti piace collezionare? Dunque, no, colleziono libri che hanno a che fare con la storia dell'evoluzione. Citazioni? Citazioni, sì, ho scritto un libro fatto solo di citazioni. Questo volevo dire, va hai bene, scritto un libro fatto di citazioni. Sì, sì. Citazioni, spiegacelo, perché un libro, questa è una cosa un libro che bizzarra. Si chiama Parole in evoluzione e che potete scaricare liberamente, così faccio pubblicità, perché Fazio non mi invita, quindi devo farmela da solo. E andate nel sito che si chiama Picaia, Picai, appunto, il sito dell'evoluzione, sito di informazione sull'evoluzionismo, e lì potete scaricare gratuitamente il PDF di questo libro che si chiama Parole in evoluzione. E la cosa è nata così, a due, diciamo, gradini. Il primo gradino è stato che, appunto, io da 40 anni leggo cose sull'evoluzione e anche una montagna di stupidaggini. E allora, quando trovo delle frasi particolarmente interessanti per un motivo o per l'altro, le copiavo e le mettevo in una cartella. Quando sono andato in pensione 2 anni fa, ho guardato la cartella e ho scoperto che avevo accumulato 376 frasi. E mentre stavo leggendo una di queste frasi, mia moglie, che anche lei è una lettrice, mi ha letto un pezzo di Tolstoi, di Guerra e Pace di Tolstoi. E io ho detto, porca miseria, questa frase è identica a una frase di Ernst Mayr, che è uno dei più grandi evoluzionisti del Novecento. Allora lì è stato il secondo gradino. Provo a mettere in fila tutte queste frasi in modo tale che una risponda a quell'altra in maniera provocatoria o delirante o qualunque altra cosa del genere. E così mi sono divertito moltissimo a pubblicare questo libro. Perché una delle cose belle di questo libro è poi tu non dici se sono vere, false, giuste, sbagliate. Tutte vere. No, sì, sì, io non le commento perché il mio scopo sarebbe quello che ognuno risponda al precedente. A suo modo. Poi certo. Dopo la gente... È una lettura veramente affascinante e stimolante. E continua, proseguo. Ci sarà un punto uno. Informazioni. Però non lasciarci... sulle stupidaggini, sull'evoluzione, qualche cosa ci devi... dire qualche... Ah, delle cose fantastiche. Allora, il mio, lì non faccio fatica a dirlo, tanto siamo a Radio Popolare, si può dire. Si può dire. Il mio bersaglio preferito è Giuliano Ferrara, il quale una volta in un articolo ha scritto, state bene attenti a queste parole, ha scritto, Charles Darwin nell'Origine delle Specie di evoluzione non parla mai, in compenso la selezione naturale c'è in tutte le pagine. Questa frase è diabolica. Perché è diabolica? Perché è vero, Darwin non usa la parola evoluzione, se non una volta nell'Origine delle Specie, ed è l'ultima parola del libro. Ma il motivo per cui Darwin non usa la parola evoluzione è che a quei tempi aveva un altro significato, significava sviluppo embrionale. E Darwin non voleva che le due cose fossero confuse. Ecco perché non parla di evoluzione, ma parla di selezione naturale, che è il meccanismo dell'evoluzione. Allora, uno che scrive una cosa del genere, a mio modo di vedere, mente sapendo di mentire. È la diabolica intelligenza di alcuni soggetti in Italia. Però invece poi ci sono anche cose un po' più pedestri che fanno breccia. Questa è una cosa un po' sottile, se vuoi, quella che hai raccontato di Giuliano Ferrara. Ce ne sono altre un po' più grossolane. Che però... Ma sono più divertenti quelle sottili. Quelle senti, grossolane... Invece volevo ritornare un po' sul aspettate, serio. Aspettate, no, già che sì. Ci siamo ve ne dirò una del come si, adesso si usa chiamarlo Papa Emerito. Ok. Sì. Dice perché purtroppo nessuno ha mai visto evoluzione in laboratorio. Allora, questa cosa è divertente perché insinua naturalmente nel lettore... L'esistenza di Dio. No, il sospetto che ci sia qualcosa di sbagliato nel nostro meccanismo. Ma invece non è affatto vero. C'è un esperimento favoloso in corso da ormai, mi pare, 40 anni, che si chiama Long Term Evolutionary Experiment, in cui siamo arrivati alla 70.000esima generazione di Escherichia coli allevati in condizioni controllate e stressanti per vedere come rispondono. E si evolve. Quindi, si evolve, sì. Sì. L'ambiente seleziona, diciamo, che la fitness sta aumentando gradatamente da 40 anni. Ma non è l'unico caso, però. L'evoluzione in azione, voi scienziati adesso ci raccontate da qualche tempo, che si può vedere. Sì, naturalmente bisogna mettersi d'accordo di nuovo sulla parola evoluzione. Cioè, se per evoluzione si intende, come io intendo e come la maggior parte degli evoluzionisti intendono, cambiamento nel tempo di una linea evolutiva di individui, è un conto. Se per evoluzione si intende, virgolette, miglioramento, come fanno molti, questo è scorrettissimo. Evoluzione, cioè, non allora, è miglioramento. Diciamo, il cambiamento nel tempo di una linea evolutiva di individuo, ormai ci sono talmente tanti esempi che non vale neanche Faccene la pena uno. Di parlarne. E non lo so, per esempio un modello molto studiato è quello degli spinarelli. Gli spinarelli sono dei pesci che sono fondamentalmente marini, che però in molti posti al mondo, anche in Italia, hanno invaso le acque dolci. Quelle col ventre rosso famoso. Esatto. No? E invadendo le acque dolci si modifica la loro struttura corporea in una maniera assolutamente radicale. E di nuovo non sappiamo bene perché, probabilmente a causa di predatori differenti, eccetera, però si perdono una quantità di spine e si perdono il cinto pelvico in larga parte. Ma questo è stato possibile verificarlo nell'arco di, diciamo, 50 anni. Ecco, quindi la teoria dell'evoluzione non è una teoria che sta lì e ci bisogna prestargli fede oppure no, ma si può verificare anche nei fatti, sia sì, di nuovo l'evoluzione si può verificare, la teoria per spiegare l'evoluzione a volte si può verificare, altre volte no. Uno può dire questo fenomeno è dovuto alla selezione naturale oppure questo qui è un cambiamento che avviene, io non so che cosa sia dovuto, è possibile che ci sia dietro la selezione naturale, ma il cambiamento è verificato. Ecco, questo è il punto. C'è qualche frontiera per l'evoluzione? Oh, guarda, tantissime. Io sono sicuro che la frontiera più importante verrà dalla parte della simbiosi, perché davvero praticamente non passa giorno senza che si scopra qualcosa di affascinante. Il mio amico, e che adesso ha preso il mio posto, Claudio Bandi, per esempio, è stato coautore di una scoperta straordinaria. Le filarie, che forse più o meno tutti conoscono, sono dei parassiti anche pericolosi degli animali domestici, ospitano in modo fisiologico dei batteri, dei microrganismi che appartengono al genere Wolbachia. Una delle filarie è responsabile di una malattia umana molto grave, credo sia la terza malattia infettiva al mondo, che è la cosiddetta cecità dei fiumi, river blindness. E questa filaria ha anche lei delle volbacchie come ospiti fisiologici. Se tu somministri tetraciclina e quindi purifichi dalle volbacchie le filarie muoiono e non si riproducono. Quindi sono ormai assolutamente dipendenti. Sono dipendenti e non so se riesco a spiegarmi, Maurizio Casiraghi della Bicocca, la Salunga, ha scritto un paio di articoli su questo argomento. Sfuma addirittura la differenza fra organulo e organismo simbionte, certo. Perché in questo caso sono veramente un organulo senza il quale l'animale non può campare. E quindi noi possiamo sfruttare questa cosa qua per combattere la cecità dei fiumi. Cioè la definizione stessa di organismo è di quello che riesce a replicarsi, no? E ad avere una progenie e non riesce più senza... Esatto. Mentre invece, no, già che ci siamo, completo l'informazione, le volbacchie si trovano nelle filarie e in alcuni insetti, insomma, in alcuni artropodi, che è il grande gruppo che comprende anche gli insetti, e negli artropodi fanno un gioco ancora più diabolico, cioè fanno fuori i maschi. E la ragione per la quale, e quindi quelle linee lì si riproducono solo per partenogenesi. E la ragione per cui fanno questo mestiere è che i microrganismi si trasmettono, diciamo, da madre a figlia nel citoplasma dell'uovo, mentre invece nello spermatozoo non ci stanno. Certo, è un po' come il DNA mitocondriale che viene trasmesso da madre a figlia, certo. La linea femminile. Esatto. Poi c'è un altro caso che tu racconti ogni tanto, che è quello delle formiche. Che è molto interessante e divertente. Quali formiche? Ne racconti tante. Ci sono 10.000 specie di formiche rosse. No. della simbiosi tra le formiche ed alcuni batteri. No. E c'è una storia molto divertente di formiche e di nematodi. Questo sì. Questa formicona del Sud America che a volte viene attaccata dai nematodi, stavolta sono dei parassiti. E sono questi, vermi, no? Vermi, sì. E questi nematodi depongono una gran quantità di uova nell'addome di queste formiche, per cui l'addome si rigonfia e per un gioco strano di colore delle uova dei nematodi e dell'esoscheletro delle formiche, l'addome diventa rosso, esattamente uguale alle bacche di cui si nutrono certi uccelli. Allora l'uccello passa lì, mangia l'addome della formica e così il nematode completa il suo ciclo, perché poi viene eliminato con le feci dall'uccello e la cosa si chiude. E quando ho chiesto all'uomo da cui ho imparato di più a insegnare nella vita, che è Claudio Longo, dice: ma come mai le formiche non hanno messo in opera una controstrategia? E lui mi ha risposto: perché la vita delle formiche conta come quella dei fanti nella prima guerra mondiale. Questa è una bella risposta. È triste, ma purtroppo è molto vero. Va bene, va bene. Senti, siamo purtroppo sempre più vicini alla chiusura, per cui andiamo perlomeno con un altro pezzo musicale. Ho visto che Goran Bregovic è una delle tue scelte, comunque sia, Underground, quindi la colonna sonora del film famoso, sì. E poi Kalashnikov, che è poi il pezzo forse più famoso. Però qui vedo che c'è stato qualcosa. Continuiamo a parlare perché c'è qualche problema con il lettore. Una cosa di cui ti volevo chiedere è: tu credi che il programma scolastico sull'evoluzione debba essere aggiornato? Perché mi sembra di capire che insomma siamo un po' indietro con. Allora, ci sono due problemi. Il primo problema è che per insegnare bene l'evoluzione ai ragazzi ci vuole una classe di insegnanti che sia preparata a farlo. E molto spesso gli insegnanti non lo sono. E io ricevo spessissimo lettere da miei ex studenti che si lamentano di cose del genere. E questo è il primo problema. Il secondo problema è che l'evoluzione è complicata. Per cui, per esempio, di nuovo, se io avessi la famosa bacchetta magica, se io riuscissi a fare uscire dalla scuola media dei ragazzi che hanno un'idea di che cos'è la vita e soprattutto di che cos'è l'immane variabilità della vita, e che quindi questo automaticamente li spinge a farsi delle domande: da dove viene questa variabilità, perché esiste, io sarei già molto contento. Vado in giro quando posso nelle scuole a parlare e faccio proprio questo. Adesso parliamo anche poi della tua attività di divulgatore. No, parliamone subito perché mancano 2 minuti e poi chiudiamo direttamente con la musica. Allora. Ok, allora una cosa sulla quale ti volevo interrogare è questa, a proposito di divulgazione. A Milano si facevano dei bellissimi Darwin Day, sì. In cui si parlava tanto di evoluzione, appunto si raccontava, non mi ricordo, come una sorta di happening in cui c'era gente che veniva e andava con la regia di Ilaria Vinassa De Regni, che è morta troppo presto e che era un po' l'anima di questi eventi. Sì. E poi? E adesso? Allora, piano. Il Darwin Day esiste ancora, si fa tutti gli anni, il 12 febbraio. Quest'anno ha avuto un enorme successo. Il 12 febbraio è il compleanno di Darwin. Quest'anno ha avuto un enorme successo. Era dedicata al sesso, sai com'è, il sesso tira sempre. E si chiama Tutti lo fanno, o Così fan tutti, si chiamava quest'anno. E era organizzato dalla gente del museo e da alcuni volontari esterni, fra cui io, Maurizio Casiraghi e altri. Insomma. Si fanno abbastanza queste iniziative. E quindi questo si fa. Quello che non si fanno più, purtroppo, sono gli famosi aperitivi evoluzionisti che si facevano ogni 15 giorni. Al Museo giorni. Della Scienza. No, al Museo di Storia Naturale. Di Storia Naturale, scusa. E la ragione è, voi non ci crederete, che è stata negata l'agibilità al bar e da 5 anni ormai, penso, il bar è inagibile. Va bene, siamo purtroppo in chiusura. Allora, grazie Marco Ferraguti, è stato grazie a voi molto, di molto interessante, grazie. Per cui noi chiudiamo con Underground, appunto, con Kalashnikov, che dà anche un tono, come dire, a questo Rimandati a settembre. Così ci piace. Noi intanto vi salutiamo, Roberto Caselli e Paolo Magliocco. Alla prossima. Andiamo allora con Underground. Thank you. sta laico a chaie, chuje, paiara. Ciao robobonice, ciao, sugi e pagliara, oppa!